At-Takwir, l'oscuramento. Bismillahir Rahmanir Rahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Idha ash-shamsu kuwirat. Quando sarà oscurato il sole. Wa idha an-nujumu kadarat. E spente le stelle. Wa idha al-jibalu suyirat. E messe in marcia le montagne. Wa idha al-'isharu 'uttilat. E neglette le cammelle gravide di 10 mesi. Wa idha al-wuhushu hushirat. E radunate le belve. Wa idha al-biharu sujjirat. E ribollenti i mari. Wa idha an-nufusu zuwijat. E divise in gruppi le anime. Wa idha al-maw'udatu su'ilat. E quando verrà chiesto alla neonata sepolta viva. Bi ayyi dhanbin qutilat. Per quale colpa sia stata uccisa. Wa idha as-suhufu nushirat. E quando saranno dispiegati i fogli. Wa idha as-sama'u kushitat. E scorticato il cielo. Wa idha al-jahimu su'irat. E attizzata la fornace. Wa idha al-jannatu uzlifat. E avvicinato il paradiso. Alimat nafsum ma ahdarat. Ogni anima conoscerà quel che avrà prodotto. Fala uqsimu bil khunnas. Giuro per i pianeti. Al jawaril kunnas. Che passano e che si occultano. Wallayli idha as'as. Per la notte che si estende. Was-subhi idha tanaffas. Per l'aurora che esala il suo alito. Innahu laqawlu rasulin karim. Questa è la parola di un messaggero nobilissimo. Zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Potente ed eccellente presso il Signore del Trono. Muta'in thamma amin. Colà obbedito e fedele. Wa ma sahibukum bimajnun. Il vostro compagno non è un folle. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. In verità l'ha visto sull'orizzonte luminoso. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Non è avaro dell'invisibile. Wa ma huwa biqawli shaytanir rajim. Questa non è parola di demone lapidato. Fa ayna tadhhabun. Dove andate dunque? In huwa illa dhikrun lil 'alamin. Questo non è che un monito rivolto al creato. Liman sha'a minkum an yastaqim. Per chi di voi voglia seguire la retta via. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul 'alamin. Ma voi lo vorrete solo se lo vorrà Allah, il Signore dei mondi.